Buonasera signore e signori, questo è il disco di Bosa MC. Alzate il vostro volume e allacciate le cinture. È quello che vorrei. Viaggi con la mente ma non sai dove sei, dove sei. È quello che vorrei. Se i sogni fossero nel cassetto lo aprirei. È quello che vivrei. Se i soldi dei politici fossero tutti miei. È quello che vivrei. Se la merda fosse oro e i cessi tutti miei. Vorrei che la gente non pensasse solo a sé, creandosi una monarchia in cui medesimarsi re. Si sentono importanti con una corona in testa. La mia corona mi importa soltanto per la fresca. Vorrei che gli MC siano meno banali, che smettessero di copiare gli americani. Meno fissità come la chiesa, vedere ogni giorno i miei amici. Uè, bella posa. Fare l'amore ogni dì sopra il letto, ma anche per terra, in cucina e sul soffitto. Le sigarette, intendo le Marlboro, invece del tabacco che ci fosse il mentolo. Meno lavoro duro e meno tasse, e che i politici mantenessero le promesse. Vorrei alzare il nome del mio clan e ubriacarmi ogni giorno. No beh, lo faccio già. È quello che vorrei. Viaggi con la mente ma non sai dove sei, dove sei. È quello che vorrei. Se i sogni fossero nel cassetto lo aprirei. È quello che vivrei. Se i soldi dei politici fossero tutti miei. È quello che vivrei. Se la merda fosse oro e i cessi tutti miei. Vorrei sfogliare una rivista, vedere il mio nome, essere pagato con bocce di cristal. Vorrei un tassista personale e la voce sexy sul navigatore. Vorrei il mio disco in ogni negozietto e la birra da ogni rubinetto. Ogni sera un live a cantare per un messaggio alla gente senza cellulare. Meno cervelli in un pacchetto, più pensieri propri per creare qualcosa di perfetto. Un suono così diretto che dà la merda a chi lo merita più di un gabinetto. Fare i pezzi che finiscano in iPod, essere nella cartella del migliore hip hop. Fede nel rap come il papa in Cristo, e sulle locandine il mio nome in vista più di Windows. È quello che vorrei. Viaggi con la mente ma non sai dove sei, dove sei. È quello che vorrei. Se i sogni fossero nel cassetto lo aprirei. È quello che vivrei. Se i soldi dei politici fossero tutti miei. È quello che vivrei. Se la merda fosse oro e i cessi tutti miei. È quello che vorrei. È quello che vorrei.